Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Dario Nardella, 37 anni, napoletano di nascita, fiorentino di adozione, sposato con due figli. Uno dei pochi renziani che viene dalla politica con esperienze autonome, consigliere comunale a Firenze, tra i pochi giovani invitati negli Stati Uniti in quanto promessa della politica. Ex vice sindaco di Firenze, promotore nella prima legislatura della legge per l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, esperto di beni culturali, violinista appassionato. Gli si dice, come il fondatore degli Scout, il mio obiettivo è cercare di lasciare questo mondo un po' migliore di come l'ho trovato. Per tutti però è il braccio destro di Renzi. Allora, onorevole Nardella, braccio destro di Renzi, si può dire? Buongiorno, beh, lo sono stato, penso, accanto a lui da vice sindaco. Ora Matteo ha bisogno di tante braccia, penso di essere una di quelle. Ecco, D'Alema dice che Renzi, come Berlusconi, ha una concezione plebiscitaria della leadership, è vero? Ma no. No, sono un uomo solo al comando, no allora? Renzi è un giovane che ha una grande personalità, ma sa avvalersi di tante competenze e collaborazioni valide. Senta, lei quando l'ha conosciuto? Io l'ho conosciuto ai tempi dell'università, poi ci siamo frequentati in modo alterno. Amore a prima vista o no? No, in realtà il nostro rapporto è cresciuto nel tempo. Lui veniva dai giovani dei popolari, io dai DS. Vabbè, mi sei trovato. Abbiamo fatto insieme la campagna elettorale per Firenze, quando allora schierarsi con Renzi era davvero difficile, soprattutto dalla mia parte. Senta, onorevole Nardella, Renzi ha le caratteristiche per trasformare un partito strutturato come il PD in un partito liquido come lo vuole lui? L'idea del partito liquido è proprio l'idea di un partito che come l'acqua può arrivare ovunque. Matteo ha questa sensibilità all'ascolto e soprattutto ha ben chiaro il ruolo della leadership. Sono sicuro che può riuscirci. Senta, ma Sky però intanto per le primarie il pubblico è dimezzato. Un brutto segnale? Può esserlo, sì. Perché? Io penso che ci sia un clima in Italia pesante, c'è molta disaffezione verso la politica, rassegnazione tra gli italiani e questo purtroppo incide anche sulle nostre primarie. Senta, comunque un partito solido, liquido, come ha detto Renzi, non aveva nessuna intenzione di guidarlo. Senta cosa mi diceva al festival della televisione di Dogliani soltanto a maggio. Lei cita sempre un poeta francese che dice bisogna saper forzare l'aurora, che è una bellissima immagine. Adesso non è per lei avere il coraggio di buttarsi nella mischia e tentare di cambiare il PD? È una bellissima domanda. Io però credo anche che le idee in politica valgano più degli uomini. In questi ultimi sei mesi io mi sono sostanzialmente candidato a tutto. Si candidasse anche a questo? Cioè, a questo non mi candido. No, ecco appunto, sei candidato a tutto, è la cosa più seria, no? No, non è la più seria. Perché è la più difficile da fare questa. Beh, non che fare il Presidente del Consiglio contro il proprio partito fosse semplice, diciamo. Infatti, però personalmente non credo di essere adatto a tutto. Il Partito Democratico deve fare una riflessione su se stesso. Non credo di essere la persona adatta. È normale cambiare idea così radicalmente? Ma in un periodo in cui la politica è in continuo cambiamento, fortemente instabile, lo trovo anche naturale. Certe volte è anche necessario. Ma che cosa l'ha convinto, secondo lei, a cambiare così tanto idea? Ma io penso che Matteo abbia fatto due considerazioni. La prima, guardando alla storia italiana, e in particolare al caso di Romano Prodi, che è stato un generale senza truppe, non ha avuto un partito dietro di sé. E poi alla storia europea, un leader come Tony Blair ha cambiato il Regno Unito per sempre, ma prima di far quello ha cambiato il Labour e ha trasformato la sinistra europea. Senta, ma quanti milioni devono andare a votare perché le primarie siano un successo e non flop? Guardi, io penso che l'obiettivo dei 2 milioni sia la nostra portata, dobbiamo quello fare di tutto. Bisogna anche dire una cosa, Minoli, che non possiamo fare paragoni con altre primarie. Quelle dell'anno scorso, ad esempio, sono avvenute in un contesto decisamente diverso. Come ho già detto, c'è molta disaffezione in questo periodo. Vabbè, 2 milioni, diciamo, il target. Molti l'altro giorno hanno brindato quando è stata votata la decadenza di Berlusconi. Lei l'ha fatto? No, e penso che chi lo abbia fatto abbia commesso un errore. Ecco, qualcuno dice che Berlusconi è stato pregato da Napolitano di lasciare perché in Europa i leader europei gliel'avevano chiesto perché lui voleva uscire dall'euro. Senta questo servizio del TG7 di Mentana di qualche giorno fa. Hans Werner Sinn, considerato dal Financial Times il migliore economista tedesco, nonché uno degli uomini più influenti del suo paese. Lo precisiamo perché le sue dichiarazioni di oggi hanno dell'incredibile e se qualcuno le confermerà potrebbero riscrivere un pezzo della storia italiana ed europea. Sinn, ad un convegno della Süddeutsche Zeitung, dove tra poco interverrà Enrico Letta, ha detto: Berlusconi nel novembre del 2011, quando era premier, avviò trattative in sede europea per far uscire l'Italia dall'euro, avvalorando quindi quella tesi che vuole che Napolitano abbia chiesto a Berlusconi di farsi da parte su pressione dei poteri forti europei. Vago concetto che di solito include la Germania, la Francia, la Commissione e la Banca Centrale Europea. Una cosa è certa, quel che avvenne nell'autunno del 2011 è un capitolo poco chiaro della storia recente. Parole forti, che effetto le fanno? Beh, mi colpiscono molto, mi sorprendono. E ci crede? Beh, se non vi sono smentite può essere verosimile, comunque l'uscita dall'euro è un piano folle dal mio punto di vista, non a caso l'ha ripreso da Grillo. Senta, onorevole Nardella, ma quando venerdì Renzi si è chiesto se in Italia c'è o no la democrazia, si riferiva al ruolo del Presidente della Repubblica? No, Renzi si riferiva alla politica italiana che non fa più sperare, che ha perso credibilità, che non riesce più a entusiasmare e soprattutto a rispondere alle esigenze dei cittadini, i partiti. È sicuro che non si riferiva? Sì. Senta, ma Napolitano oggi ha troppo potere? Napolitano ha molto più potere dei suoi predecessori, senza alcun dubbio. Il punto qual è però? È che non è colpa sua. I partiti hanno alzato bandiera bianca, per questo Napolitano ha preso questo potere. Posso dire una cosa, Minoli? Io non dimenticherò il giorno in cui Napolitano, davanti alle Camere riunite nell'insediamento, attaccò il sistema politico, denunciò i limiti dei partiti e in cambio prese applausi pieni di ipocrisia da parte dei parlamentari. Quindi un'elezione ipocrita, in qualche modo, piena di ipocrisia. Senta, Nardella, Napolitano è presidente comunque perché 101 parlamentari del PD non hanno votato Prodi. Lei lo sa chi sono stati questi traditori? Non ho la certezza di nessuno. Ma lei, renziani, avete votato per Prodi? Noi abbiamo votato, anzi, ricordo bene che Renzi, così come pubblicamente si mostrò scettico sulla candidatura di Franco Marini, contrario, con altrettanta decisione sostenne Romano Prodi. Quindi lei l'ha votato? Sì. Io dica, ho votato, giuro, come gli altri. Dica, lo giuro. Minoli, ora, non è che siamo in un confessionale. Comunque, se proprio vuole essere contento, se proprio vuole che l'accontenti, lo dico. Va bene. Senta, adesso il caro di Renzi è sempre più pieno di amici e di opportunisti. Siete in grado di selezionare una nuova classe dirigente? Questa è la sfida, selezionare una classe dirigente che oggi non c'è più, non solo nei partiti, ma anche nei media, nelle banche, nella finanza, nelle aziende di Stato. Bisogna ricominciare, Renzi, da zero. Esatto, e non a caso Renzi, con una battuta efficace, dice sempre: il carro bisogna spingerlo, non bisogna salirci sopra. Ecco, onorevole Nardella, lei comunque è uno dei pochi amici di Renzi che ha una storia politica precedente. Si sente un politico di professione? Io penso che sia giusto vivere per la politica e non vivere di politica. Non mi immagino come un politico per tutta la vita. Il giorno in cui capirò che faccio politica per convenienza o per necessità, sarà il giorno che smetterò. Ecco, quali sono stati i punti di riferimento della sua formazione culturale? Ma io ho una formazione giuridica, mi sono formato sui libri di Piero Calamandrei, di Norberto Bobbio, il filone laico, liberale, Hans Kelsen. È quello il suo. Vengo dalla scuola di Paolo Barile, ho quella formazione. Senta, tra i renziani, lei è il più corteggiato da D'Alema. È lusingato? No, direi di no. Perché? Beh, ci può essere apprezzamento, stima reciproca. Ma D'Alema è definitivamente rottamato? Beh, questo lo vedremo l'8 di dicembre con i risultati di Cuperlo. Senta, se vince Renzi, c'è il rischio di una scissione appunto nel PD, come è capitato nel PDL? No, io ho già detto che non credo nella scissione, anche perché Renzi vuole ampliare i confini del PD, non restringerli. Guardi, dobbiamo anche qui segnare una rottura con il passato di una sinistra che chiude sempre un congresso con una scissione. Senza, Renzi dice: se vinco il governo deve fare come dico io, cioè un pisano deve fare quello che dice un fiorentino? Questa è una lunga storia. Beh, potrei ricordare Michelangelo la battaglia di Cascina che i fiorentini vinsero contro i pisani nel 300, quindi precedenti ci sono. Ah, quindi storia basta fare riferimento alla storia. Senta, scherzi a parte, 9 dicembre quando Letta tornerà in Parlamento con un nuovo governo e un nuovo programma, sarà tutto come dice Renzi? Guardi, intanto un giorno non basta per fare verifiche o fiducie. Anzi, prima di arrivare ad un passaggio parlamentare è indispensabile, a mio avviso, un confronto con il Partito Democratico, con il nuovo segretario e la sua leadership. Si incontrano e si scontrano per trovare l'accordo sul programma, diciamo così. È certo che ci vuole un confronto vero, come Renzi ha già detto, e mi auguro Letta raccolga. Ecco, però sembrano, visto da fuori, tornati i tempi in cui la segreteria della Democrazia Cristiana chiamava amici i governi che voleva liquidare. Ecco, Renzi farà così con Letta? No. Questa del governo amico è una trappola, nel senso che ai governi amici si impongono i rimpasti, ai governi propri si chiedono risultati sugli impegni che si prendono. C'è una bella differenza. Noi faremo la seconda cosa. Senta, ieri lei però ha detto nel 2015 Renzi al governo, Letta in Europa. Mi sembra un presiluro, insomma, preventivo. No, semplicemente io vedo che Letta va molto in giro in Europa, parla molto di Europa, ne è esperto, e quindi mi pare che sia una sua ambizione. Insomma, si sta preparando la via d'uscita. Non lo so questo, bisogna chiederlo a lui. Senta, il PD oggi assomiglia alla Democrazia Cristiana, 140 deputati alla sua sinistra, più o meno altrettanti a destra. Può fare la politica dei due forni, secondo la corrente interna che vince il congresso, è così? Non direi, secondo me il PD oggi di fatto acquista una centralità nella politica nazionale e nel rapporto con il governo. Questo non vuol dire che sia un partito di centro. Anzi, il nostro obiettivo è tornare al più presto ad una cultura dell'alternanza e rafforzare il bipolarismo. Quindi voi siete per il bipolarismo secco? Nella maniera più assoluta. Senta, ma tra Renzi e Letta adesso si tenta, come prima cosa, un accordo sulla legge elettorale. Ecco, quale? Guardi, domani la Corte Costituzionale si esprimerà sul ricorso sulla legge elettorale. Leggo che probabilmente potrebbe accogliere il ricorso e prendersi 1 o 2 mesi. Ecco, prima di allora, prima della sentenza della Corte, almeno in uno dei due rami del Parlamento ci vuole un atto, un voto per il ricambio della legge elettorale. Quindi, questo deve essere chiaro. Quindi Nardella, diciamo, a nome dei suoi, diciamo, lei dice entro 2 mesi o si va in Parlamento con una legge oppure tutti a casa. Aggiungo, anche per il Senato, per l'abolizione del Senato, niente vorrei ma non posso, o senatini, a passare al monocameralismo, il Senato diventi la Camera delle Autonomie. Su questi due punti, legge elettorale e abolizione del Senato, non possiamo rinviare le calende greche, altrimenti non avrebbe senso continuare questa esperienza allora, di governo. Allora, se entro 2 mesi non capita, a casa. Non saremmo più credibili, non lo sarebbe il governo, non lo sarebbe la maggioranza. Il PD deve dire questo ad Alfano e a Letta. Senta, ma elezioni subito con Renzi candidato premier e con il suo programma. Non sarebbe la cosa più semplice e più chiara che capiscono tutti? Non direi la più semplice, forse la più chiara. Ad ogni modo non vi sono le condizioni istituzionali e il quadro internazionale non lo consente. Quindi per un annetto Letta e Renzi devono fare buon viso e cattivo gioco, collaborare per forza. Ma non devono fare finta. Io sono convinto che Matteo imposterà un rapporto nella chiarezza e nella coerenza, e spero davvero che Letta raccolga questo stimolo. Quindi uno scontro per la premiership non sarebbe uno scandalo, diciamolo. In generale non penso che le primarie con Renzi e Letta siano scandalose, questo no, ma oggi non lo vedo imminente, come ho già detto. Senta, torniamo a noi. La legge elettorale ha detto vedremo, ma entro due mesi deve esserci la proposta, anzi l'approvazione. La seconda cosa è trovare un modo diverso per tornare in Europa, cioè? Guardi, dopo la rottamazione in Italia dobbiamo portare la rottamazione in Europa. Dobbiamo, in una battuta, rottamare l'euroburocrazia. Senta, ma altrimenti lasceremo spazio ai partiti xenofobi, populisti che stanno prendendo piede in tutta Europa. Che speculano sulla paura dell'Europa. Senta, cosa dice il professor Guarino del colpo di Stato fatto dai tedeschi in Europa a danni dell'Italia? Lei dice che con la creazione dell'euro c'è stato un colpo di Stato. In parole semplici, mi dice perché? Molto facile, sì. Individuarlo, perché la disciplina elaborata da Pearl, da Delors e da Carli, sì, ed approvata da tutti gli Stati con le procedure di approvazione dei trattati, era fondata su due poteri, perché tu non puoi dire la crescita, devi conferire i poteri per realizzare la crescita. Naturale. E questi poteri erano esattamente individuati, erano, ciascuno Stato poteva elaborare, doveva elaborare la propria politica economica in funzione della crescita, nell'elaborare la politica economica in funzione della crescita avrebbe potuto indebitarsi. E allora, professore, questi due poteri sono stati eliminati. Sono stati esautorati. La cosa importante è che sono stati sostituiti da due doveri. Certo. Il primo dovere è di realizzare il pareggio del bilancio a medio tempo. Il secondo dovere di realizzare il pareggio di bilancio a medio tempo seguendo un programma prestabilito dalla Commissione. Insomma, c'è stato un colpo di Stato, come dice, un golpe, come dice Guarino. Beh, la sostituzione della burocrazia alla democrazia. Non si può chiamare colpo di Stato, ma insomma qualcosa. Mi assomiglia molto. Ecco, ma il ministro del Tesoro Saccomanni è sufficientemente deciso nel difendere gli interessi italiani in Europa in questo quadro? Beh, a mio personale avviso, troppo remissivo. Accetta le regole della dell'euroburocrazia e questo dobbiamo superarlo. Quindi non va bene. Senta, insomma, per fare sviluppo si può e si deve sfondare il tetto del 3% del deficit. Ma la questione appunto non è sfondare. Io non voglio un'Italia abusiva in Europa. È che non va bene proprio il tetto. I parametri di Maastricht risalgono al 93, qualche anno dopo la caduta del muro di Berlino. Nel frattempo è cambiato il mondo. Dobbiamo ripensare il modello europeo. Senta, lei, sviluppo comunque vuol dire lavoro e quindi soldi da investire. Cottarelli, che è l'uomo dei tagli, dice che recupererà 35 miliardi della spesa pubblica. Ma dove li recupera? Beh, intanto, come ha indicato anche Renzi, a proposito delle proposte per le primarie, dalla semplificazione amministrativa. Insomma, quella dell'abolizione delle province è diventato un ping pong estenuante. Se sommiamo a questo obiettivo quello dell'abolizione del Senato, noi già così possiamo arrivare a 1 miliardo di euro di risparmio. Va bene, fa 1 miliardo. Gli altri 34 dove li trova? Le do un dato, Minoli. Noi abbiamo più o meno 36.000 centri di spesa pubblica nel nostro paese. La spesa pubblica è aumentata molto più che in Francia e in Germania. Spesso si tratta di doppioni, spesso si tratta di inefficienza, sacche di spreco. Lì bisogna andare a lavorare, non più tagli lineari, ma tagli selettivi, ma non tra 12 mesi. Subito. Ma intanto lei è favorevole al salario di cittadinanza per tutti? Io sono contrario al modello culturale della sovvenzione. Le posso dire, ad esempio, ho letto che in Andalusia il governo ha deciso di pagare le bollette del gas e della luce ai cittadini poco abbienti. Ecco, invece del sussidio, quella può essere, ad esempio, una soluzione concreta. Ma guai all'idea delle sovvenzioni, altrimenti torniamo a un'Italia che non vogliamo più. Senta, onorevole Nardella, intanto Berlusconi va all'opposizione, torna l'IMU da pagare. Mi sembra un bel regalo elettorale per lui. Detto in parole semplici. Oggi, stamattina ho riaperto i giornali, di nuovo non si sa l'IMU, quanto sarà, chi lo pagherà, entro quando. È 6 mesi che andiamo avanti con questa storia. Abbiamo ormai toccato il... Vabbè, ma è il governo che non decide, mica io. Ma è lì il punto. Io penso che Saccomanni non sia stato scelto solo per aumentare un punto percentuale dell'IVA. Lì poteva andarci anche Nardella, diciamo, se l'obiettivo... Si candida. Doveva... Per dire, sono l'ultimo a cui penserei per fare il ministro dell'economia. Abbiamo scelto uno bravo, ma ecco, bisogna uscire fuori da questo, insomma, da questa spirale cosa fa veramente si metta una parola fine, anche perché la sinistra non ha fatto quello che abilmente ha fatto Berlusconi con l'IMU. Noi non abbiamo portato a casa una nostra battaglia, e su questo che insiste giustamente Renzi. La sinistra deve portare con questo governo a casa degli obiettivi che sente propri. Senta, ma IMU non IMU, è sicuro che Alfano farà come dice Renzi? Alfano anche stamattina vedo che pone condizioni, parla di corde. Io ritengo che non sia in grado di porre condizioni. Ecco, Alfano. Però sulla giustizia Alfano promette battaglia, avrà soddisfazione? Ma guardi, quando mi parla di giustizia di Alfano mi viene in mente il lodo Alfano. che proponeva di sospendere i processi penali per le alte cariche dello Stato, tutto il contrario del principio di eguaglianza davanti alla legge. Non a caso, se ricordo bene, la Corte Costituzionale l'ha dichiarata illegittima, quindi non mi pare che parta con le migliori referenze. Senta, mi sembra già una bella tensione, no, la giustizia. Detto questo, è giusto parlare di questo. Ecco, dico, per Renzi è un tabù la giustizia? No, affatto. Qui, come dire, va raccolto la proposta, ma devo dire, Renzi alla Leopolda, nell'ultimo appuntamento, con grande coraggio ha portato l'esempio di Silvio Scaglia per parlare di una giustizia penale che non funziona e che va riformata. Ecco, a proposito di esempi di Renzi e di giustizia, Renzi attacca invece la Cancellieri che non è inquisita e difende De Luca che è inquisito ed è un suo grande portatore di voti. Due pesi, due misure, insomma. Ma io sono stato garantista con la Cancellieri, tra i pochi del mio partito, e quindi ritengo in modo coerente di poter fare lo stesso con De Luca. Ciò non toglie che De Luca debba scegliere però tra i due incarichi istituzionali, o sindaco o vice ministro. Quando io da vice sindaco sono stato eletto in Parlamento, mi sono dimesso immediatamente, anche se la legge non mi obbligava a ciò. Ecco, comunque Alfano, che chiede garanzie sul programma e sul governo, le avrà oppure no? Ripeto, non è in grado di chiedere garanzie. Appoggi lealmente il governo. Non è stato il PD a chiedergli di mollare Berlusconi. Senta, con Forza Italia all'opposizione, Alfano al governo, non è che Berlusconi invece gioca su due tavoli per essere più forte? Beh, Berlusconi è come quel finanziere del turbocapitalismo che differenzia gli investimenti un po' in derivati, un po' in obbligazioni, così se qualcuno non vuole votare lui, voterà Alfano, comunque il voto rimane nel centrodestra. Senta, lei è stato un violinista, l'abbiamo detto nella presentazione, che cosa le ha insegnato la musica che adesso le serve in politica? La musica mi ha insegnato ad ascoltare, la musica mi ha insegnato le vere relazioni umane. Ma è stato un dolore smettere? Quando ho scelto l'università e lo studio della legge, per me è stato un grande dolore. Se fossi nato olandese o tedesco oggi sarei violinista, ma in Italia un musicista purtroppo non ha un grande futuro, anche se avesse talento. Senta, in assoluto cosa le dà la musica che la politica non le darà mai? Beh, la musica non ti tradisce mai, la musica è verità. Il mio maestro diceva sempre che una nota stonata è come una macchia di sugo su una camicia bianca. Una nota stonata è una nota stonata. E non c'è niente da fare. Senta, davvero lei crede che il 9 dicembre in Italia finirà un'epoca, se ne aprirà un'altra? Io penso di sì. L'8 dicembre non è un semplice avvicendamento di segretari come si vuol far credere. Può essere una svolta per la sinistra. E le devo dire, è già in atto un cambiamento. Renzi ha aiutato questa svolta spianando la strada ad una nuova generazione. Che comunque c'è. Esatto. E comunque il governo di oggi è l'ultimo governo di una vecchia fase, non il nuovo di una nuova fase. Quindi il governo Letta è l'ultimo governo di una vecchia fase. Perché l'8 dicembre può essere una svolta e dopo questa svolta dobbiamo costruire una sinistra, costruiremo una sinistra nuova. Senta, ha paura che nel 2014 le tensioni sociali esplodano? Sì, molta. Qualche giorno fa ho incontrato una commessa in un negozio che è scoppiata a piangere all'improvviso perché suo figlio da 2 anni non trova lavoro. Ricordo Sangalli che non più tardi di un paio di settimane fa, il presidente della Confcommercio, ha detto: attenzione, siamo ormai al limite, il 2014 può essere anche un anno di tensioni sociali. La politica deve capirlo il prima possibile questo. Io lo vedo andando in giro, lo vedo nella mia città, lo vedo in giro per l'Italia. Non è possibile che non si dovrebbero risponda. Vederle tutti, è evidente, di tutta evidenza. Senta, le faccio un'ultima domanda. Ma lei in Dio ci crede? Io credo in Dio, ho incontrato la fede in età matura, dopo l'università. Per me è stata un'esperienza straordinaria. Insomma, allora, perché l'Italia non esploda, forse sarà quasi utile anche un po' pregare. Grazie. Grazie a voi. Dopo la pubblicità, in studio 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Pubblicità. Mix 24. Nei tuoi occhi c'è una luce che scalda la mia mente. Con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade. Beh, Pietrangelo, allegria. Gioia e rivoluzione. Gli area, dopo aver visto le immagini ieri ancora oggi sui giornali di quella adunata di Genova di presunti rivoluzionari, populisti ben gonfi e perfino col colbacco, almeno uno sprizzo di vera gioia, di vera rivoluzione con quello che furono gli area che ancora oggi rappresentano. Senti, appunto, questa effervescenza rivoluzionaria vera. Un'area. Sì, ma che titolo area faresti, Mario, dell'intervista di Dario Nardella? Nardella Martella. Nardella Martella. E Pietrangelo? 2 milioni di baionette per le primarie, però più che un titolo, un commento. È il Tatarella di Renzi, lui. E dicendo questo è un complimento. Gli hai fatto un grande complimento. È perché, però, è anche un'accusa all'altro, il vuoto dell'altro, perché corrisponde a quello che fu la, ricordati la che catastrofe di Fini. Crozza canta: sono vuoto, riempio il vuoto, quindi quindi lo riempie bene, perché... Senti, per partecipare alle nostre bolle, lo ricordo, 800 24 00 24, 349 238 6666 per gli sms. Mario, oggi eccoci qua. Allora, bolle, bolle che bollono, bollono perché l'avete affrontato nel dialogo con Nardella. Qua il pasticcio della tassa sulla casa è clamoroso. Beh, ma però l'avevamo detto, guarda, non voglio dire che l'avevamo detto, ti ricordi Il nostro ritornello, il nostro di Sara Tardelli, il tormentone, era tormentone. Perfetto. L'avevamo detto, quindi non è niente di nuovo sotto il sole. Ora devono rimediare al caos. Si parla di un aumento dell'acconto IVA per coprire la maggiorazione che sarebbe vabbè, a carico dei comuni. Vabbè, non sanno cosa fare, diciamolo. Sì, e devo dire, il riferimento di Nardella a Saccomanni ci sta tutto, ci sta tutto. Perché, un pochino, insomma, non c'era bisogno di un direttore generale della Banca d'Italia. E soprattutto uno bisogna chiedersi che cosa fanno negli uffici del Ministero dell'Economia a questo punto, perché appunto è grave. Guarda, Giovanni, io ne ho viste tante come te, però questa è pazzesca, perché era annunciata. E detto questo, naturalmente ci abbiamo che cosa? Un governicchio. Il triangolo no. Renzi dà l'ultimatum, Alfano chiede il patto, il segretario futuro del PD fa il duro, quello del nuovo centrodestra vuole un programma di un anno, ma Letta ce la farà in queste condizioni? Qualcuno direbbe l'elicottero della fuga, no, so, qualcuno direbbe che sono gli elicotteri del Fondo Monetario Internazionale, in realtà sono droni. E perché droni? Perché è fantastica l'idea di Amazon di consegnare i libri attraverso i droni. Ora tu immaginati il traffico a casa tua, che non è, diciamo, priva di libri, senza pensare a quella di buttafuoco di casa, vero Pietrangelo? Salamini. Salamini insaccati di pagine, di libri, e oggi un libro ben raccontato da Cazzullo sul Corriere. Sì, Aldo Cazzullo oggi racconta il libro di Giampiero Mughini, Una casa romana racconta, libri, donne, amici perduti, le tracce di una vita. E siccome Mughini è quello che ci ha ben spiegato come il Novecento si fosse concluso su quella... su quel terremoto, il terremoto concluso in una meravigliosa... Devo evocare Brigitte Bardot quando appunto camminando fece tremare tutto il Novecento e lo concluse. Adesso invece sono gli zigomi di Kate Moss. Proprio gli zigomi. Che Giampiero Mughini in questo libro svela, dispiega e racconta come se fossero le vele di Dino Marradi. Di Dino Campana Marradi. E quindi ci vuole un po' di Arigliano. Nicola nostro. Donna, tutto si fa per te. Poi mi spieghi tu con questa, perché... Ma questa è semplicissima, perché siamo passati da Brigitte Bardot a Kate Moss. Sei innamorato, guarda, non è possibile. Quello sempre. Sempre, nel suo libro lo racconta benissimo. Dopo la viabilità ne parliamo. Mix 24. Mario. Allora. perché qua, insomma, rivoluzioni. Prima tu hai evocato gli aria, caro Buttafuoco, però qua succede di tutto. Vabbè, in Ucraina hai visto, adesso tu mi dirai che no, non è così, però insomma... Quindi... Certo, viene amplificato dai giornali occidentali per foraggiare una pia illusione americana, quella di sporcare la presenza eurasiatica di tutto. Mamma mia, Pietrangelo, vogliamo parlare del Timoshenko? Vogliamo parlare della Timoshenko? No, perché poi il cavaliere... Speriamo che la liberino, dai. Esatto. Il cavaliere più innocente della Timoshenko. No. Chi è? Vabbè. Eccola là. Allora, comunque, da quanto tempo sta dentro la Timoshenko? Parecchio. Mamma mia, è un auspicio, non lo so, 2 anni, 3 anni? Sì, è una cosa brutta. Dai. Vai. Allora, 100.000 in piazza a Kiev comunque. Free trade, più Europa, vabbè, chiedono la caduta del governo. Va da sé che è il lavoro dell'opposizione, ne abbiamo viste tante. In Thailandia, diciamo un film diverso, ma forse anche più drammatico in questo caso, però anche lì c'è il tema di che cosa? Della libertà, che si coniuga a che cosa? Alla qualità della vita. E anche lì c'è un cavaliere in bianco. Bianco. Sì, sì. No, il colore è ancora incerto. Vai. Posso aggiungere una bolla? Sì, certo. L'ho evocata. Leggendo la prima pagina del Sole 24 Ore oggi, qualità della vita. Eccola là. Sai, le classifiche del Sole. Vince Trento, andando invece in basso, dove di solito ha sempre vinto la mia provincia, che è arrivata sempre ultima, cioè quella di Enna. La provincia di Enna, invece non c'è più, c'è Napoli, NC. C'è Caserta, c'è Taranto, c'è Reggio Calabria, c'è Palermo, e se ci fosse in ascolto ancora Nardella, io darei una spiegazione politica del perché Enna non è più il fanalino di coda. Perché? Sì, perché è sparita. Perché Mirello Crisafulli ha lavorato vinto bene e ha risollevato le sorti della provincia, e quindi se vogliono vincere davvero tutti, i 2 milioni di paionette, Crisafulli for president, tutti con Mirello. Yeah. Vabbè. Ragazzi, concedetemelo, ma sono i 20 anni del push up. Lo stringipetto? Sì. O l'alzapetto? Quella cosa lì che ne ha fregati tanti, credimi. Vabbè, senti, questa qui è una lettura maschilista. Aspetta, farò. Diciamo la verità. Allora, dai, su. Durante la preparazione delle bolle, rivelo dietro le quinte. Sara Tardelli mi ha detto, vabbè, ma vedilo dalla parte delle donne. Ecco. E io ho detto, ma non stringe troppo, non lo so, io andiamo avanti. 800 24 00 24. Allora, SMS 349 238 6666. Giovanni, vai. Ieri in curva allo Juventus Stadium. Ah. Vabbè, adesso non buttarla così. Senti i bambini. Meraviglioso. Senti, iniziativa bello. Stupenda. Allora, veramente. Gli stadi italiani devono diventare tutti così. Li vogliamo così. Il resto non ci interessa più, perché il calcio è uno sport bellissimo. E allora, Fantastico. Oltre al gol di L'Oriente, arriva. Vince. Il mister c'è sempre le stesse cose. Cerchiamo sempre di vincere, però a volte è la Juventus. Così è la Juventus che è prima. Abbiamo la scoperta di un piccolo fenomeno. Ricci. Non c'è. Si è concluso a Torino, caro Mario, e con un successo enorme il Film Festival. Michele Coppola, che è l'assessore alla cultura della regione Piemonte. Ecco, avete raggiunto i 100.000 visitatori. Coppola, buongiorno intanto. Buongiorno Minoli, buongiorno. Ma in realtà i dati ufficiali ce li comunicano alle 11. Sa, qui siamo a Sabaudi, vogliamo fare i conti bene, certo. Vogliamo fare attenzione, non vogliamo dire un numero sbagliato, poi ci tocca tornare indietro. Però in realtà sì, è fatta, nel senso che rispetto ai 76.000 visitatori del 2012 siamo ai 100.000 del 2013. In sostanza l'incremento è straordinario. Un vero successo. Ecco, sì. Ma e qual è stato l'ingrediente che ha fatto vincente di questo festival? Sì, io credo che la risposta vera sia l'attenzione che il festival è riuscito a guadagnarsi attraverso il lavoro nostro, classico, quello serio, per cui un festival che ha una struttura che aggiunge un direttore di RZ che ha portato quell'elemento di divertimento, di brio, quella capacità di scommettere sulla battuta e di raccontare la qualità e la serietà nostra in maniera più divertente, e questo è stato il vero ingrediente di successo, un festival serio che diventa anche pop, e quindi ecco che i numeri crescono e praticamente mi ha fatto un sold out di tutte le sale, 11 sale, 9 giorni, 180 film, era difficile fare meglio. Ecco, assessore Coppola, ma il festival è una spinta positiva per il cinema, ma lo è stato, questo l'ha detto, ma lo è stato anche per il territorio, cioè l'indotto economico c'è stato. Sì, guardi, in realtà il vero elemento, la vera novità della ricchezza torinese e piemontese, della produzione di ricchezza torinese e piemontese è la proposta e l'offerta culturale. Oggi parliamo del cinema, il Torino Film Festival è una vetrina di tutto il sistema cinema piemontese, una film commission che fa scuola, un museo nazionale del cinema con 600.000 visitatori all'anno e ovviamente un festival che diventa occasione di riflessione ma ecco, anche un momento di gioia. Due settimane fa il weekend dell'arte contemporanea, di nuovo straordinari risultati, artissimo al Castello di Rivoli, insomma abbiamo cambiato pelle. Ecco, ma insomma che cosa insegna quindi questo festival per promuovere la cultura in Piemonte? Qual è il messaggio finale, oltre che Virzì è stato bravissimo, diciamolo? Sì, il messaggio è che intanto Torino e il Piemonte sono luoghi di cultura italiani ed internazionali, non siamo in alto a sinistra nella cartina geografica dell'Italia, ma siamo al centro dell'attenzione per qualità, per numeri, per serietà, per varietà, e quindi immaginare il nostro luogo come un luogo che viene scelto e viene rinnovata la scelta nel corso dell'anno a seconda dei momenti, dal Salone del Libro all'arte contemporanea, bisogna investire in cultura perché ogni volta che una risorsa pubblica viene messa nel sistema culturale nostro e questo ne è stato, e questa ne è stata la prova. Esatto, e questa è stata la prova. Grazie mille Coppola, grazie Coppola, ma grazie. Grazie Mario. Ma, per chiudere? Sì, no, ci sono cose interessanti che accadono in Medio Oriente. Il ministro degli esteri iraniano Zarif, che è stato bravissimo nei colloqui di Ginevra, ha chiesto ai sauditi di collaborare per la pace nella regione. Anche questo è un segnale molto importante. Vediamo se avrà poi un seguito reale nella politica estera. Questo sarà importante estera. Da seguire, però lo seguiremo. Importante. Ecco, dopo il giornale radio, Mix 24, come al solito, arriverà con la storia curata da Marina Milone. Il 2 dicembre del 1923 nasceva Maria Callas. Ecco, oggi ricordiamo questa grandissima artista, la divina Maria Callas.